Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti per questo martedì 20 ottobre. Seguirà naturalmente in Radio Zanardi una rassegna stampa che cercherà di cercare un bandolo della matassa dell'informazione sempre più difficile e impazzita, ma subito per avere una bussola per orientarci meglio in questo dedalo di notizie, allora Radio Bullet dalla pagina internazionale. Buongiorno e benvenuti nel web notiziario con le notizie che ci raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. Canada, record di donne candidate alle elezioni, anche in Svizzera il Parlamento è più donna, più verde e giovane. Cile, non si placano le proteste, l'ONU chiede di indagare sulle vittime. Arabia Saudita, le donne pellegrine non hanno più bisogno del tutore maschio. Israele, Netanyahu rinuncia, la formazione del governo passa a Gantz. Siria, soldati americani presi a sassate durante il ritiro. E Libano, governo approva una serie di riforme economiche per placare le proteste. Slovacchia, 4 incriminati per l'uccisione del giornalista Kuciak e della fidanzata. E infine Kashmir, il silenzio per la libertà. Questo e molto altro nel web notiziario di Radio Bullets. E cominciamo con l'Arabia Saudita. Le autorità hanno autorizzato l'abolizione della tutela maschile durante il pellegrinaggio delle donne. Una legge impediva alle donne di partecipare al pellegrinaggio di Umra senza un parente maschio. Ora sarà tolta, mentre il regno ultraconservatore si sforza ultimamente di aprirsi ai turisti. Le donne over 18 non avranno più bisogno di un muhrem per compiere il pellegrinaggio minore nelle città sante di Mecca e Medina. Il capo del Pentagono, Mark Esper, fa visita all'Arabia Saudita mentre crescono le tensioni con l'Iran. Il presidente Trump, parlando con i reporter alla Casa Bianca, ha spiegato i suoi sforzi di tirare fuori gli Stati Uniti dalle guerre, ma ha avvisato che potrebbe comunque doverci entrare, riferendosi all'Iran che minaccia di colpire come non è mai stato colpito prima. E a proposito di Iran, un terremoto 5.6 ha scosso la città meridionale di Kukkar nella provincia di Hormozgan. Non sono state segnalate vittime, ma le autorità hanno mandato squadre di salvataggio nella regione per controllare la situazione. Libano. Prime Minister Saad al-Hariri and his government partners agreed to a package of reforms. Sono state intense le pressioni per le dimissioni del premier Saad Hariri dopo giorni di proteste a Beirut e non solo, ma ha deciso di non uscire di scena e invece annunciato un piano di riforme economiche senza precedenti. In un discorso in diretta televisiva, Hariri si è detto solidale con i migliaia di manifestanti che protestano da ormai 5 giorni, ha assicurato riforme economiche decise ieri che vanno incontro alle richieste popolari, tra cui dimezzare i salari dei ministri, ha concordato il bilancio del 2020 nel tentativo di affrontare la crisi fiscale nel paese, a corto di liquidità e porre fine alle manifestazioni a livello nazionale. Parlando in una conferenza stampa al Babda Palace vicino alla capitale Beirut, ieri Hariri ha affermato che tra le riforme più importanti c'è l'approvazione del bilancio pubblico 2020, che prevede un deficit dello 0,6% del prodotto interno lordo. Il governo ha anche concordato di non imporre nuove tasse ai cittadini. Con la banca centrale, l'istituzione finanziaria disposta a partecipare alla riduzione del deficit. Siria, se non si completerà entro oggi il ritiro delle milizie curde dalla zona di sicurezza disegnata dalla Turchia nel nord-est della Siria, non ci sarà alcuna estensione della tregua, dice Ankara. Tregua che è stata più virtuale che reale. Intanto Medici Senza Frontiere, costretti nei giorni scorsi ad evacuare, hanno avviato attività medica al confine Iraq-Siria per fornire assistenza alle persone in fuga dal conflitto. Più di 5.300 persone hanno attraversato il confine dall'inizio dell'offensiva, con oltre 500 nuovi arrivi al giorno negli ultimi 6 giorni. Il presidente turco Erdogan, che oggi incontrerà il presidente russo Putin, ha detto che i paesi occidentali si sono schierati dalla parte dei terroristi contro la Turchia, criticando l'offensiva contro le milizie curde. Trump ha deciso di lasciare 200 soldati a protezione dei pozzi petroliferi della zona, mentre un gruppo di curdi ha lanciato patate e verdure contro il convoglio militare americano che invece se ne andava passando attraverso la città di Qamishli per entrare in Iraq. Nel frattempo il presidente Trump ha difeso la sua decisione di ritirare un migliaio di soldati dal nord, dicendo che gli Stati Uniti non hanno mai promesso alle forze curde di restare nel paese per 400 anni per proteggerli. Ha detto che non vuole che i soldati americani siano in Siria e che quindi stanno intelligentemente lasciando il paese. Israele, il premier Netanyahu si arrende, non riuscendo a formare il governo, rimette il mandato al presidente Rivlin per la seconda volta in 6 mesi. Ora tocca al leader del partito blu e bianco, avversario delle sue ultime elezioni, Benny Gantz, tentare di formare il governo. Stai ascoltando Radio Bullets. Slovacchia, 4 persone, tra cui un uomo d'affari di alto profilo, sono stati accusati di omicidio del giornalista Jan Kuciak e della sua fidanzata l'anno scorso. Kuciak e Martina Kuznirova, entrambi di 27 anni, vennero uccisi a colpi di arma da fuoco nel febbraio 2018 a casa, Bratislava. Il potente imprenditore slovacco Marian Kočner e 2 presunti complici si sono dichiarati non colpevoli degli omicidi che l'anno scorso provocarono tali proteste da far cadere il primo ministro. 1/4 persona invece ha confessato, un altro sospettato ha ammesso di aver organizzato l'omicidio ma ha patteggiato in modo da diventare testimone nel processo contro gli altri. Il giovane reporter scriveva di uomini d'affari corrotti, di sussidi europei, delle frodi sull'IVA e dell'andrangheta italiana e dei suoi tentativi di coltivare legami con politici slovacchi. Regno Unito, John Bercow, lo speaker della Camera dei Comuni, ha respinto la mozione del governo del premier Johnson per rimettere i voti ieri l'accordo sulla Brexit raggiunto con Bruxelles, ma rinviato sabato con un emendamento. Today's motion is in substance the same as Saturday's motion. And the House has decided the matter. Secondo Bercow, l'istanza non può essere riproposta nella stessa forma di sabato. A questo punto, per il governo, è corsa contro il tempo per far approvare entro questa settimana le leggi attuative dell'uscita dall'Unione Europea e ripresentare il deal subito dopo in un contesto nuovo, pena un rinvio o il no deal. Restiamo nel Regno Unito perché è stabilito per febbraio il verdetto di primo grado sulla richiesta, non senza polemiche, di estradizione negli Stati Uniti di Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks, detenuto nella carcere di sicurezza di Belmarsh. Nonostante abbia finito di scontare l'unica condanna subita nel Regno Unito per violazione dei termini della cauzione nel 2012, in aula è apparso dimagrito. Il giudice ha respinto la richiesta della difesa dell'attivista australiano 48enne di un rinvio di 3 mesi per avere più tempo per studiare le carte. Assange, intervenuto, aveva difficoltà a parlare, con le lacrime agli occhi ha protestato lamentando di dover combattere ad armi impari dalla prigione senza accesso ai dati necessari contro una superpotenza con mezzi illimitati come gli Stati Uniti. Canada, le elezioni generali che si sono tenute ieri le ha vinte il premier Trudeau, che riuscirà però a ottenere solo un governo di minoranza. Elezioni che hanno visto una presenza di donne senza precedenti, con un numero di 651 candidate tra tutti i partiti, con un aumento del 9% rispetto al 2015. Il partito con più donne, New Democratic Party di Jagmeet Singh, con 165 candidate per 338 posti in Parlamento, con 156 seguono i Verdi, unico partito guidato da una donna, Elizabeth May, quindi liberali di Trudeau. Bolivia, brogli, brogli, hanno gridato i sostenitori pro Mesa, assassini, hanno risposto quelli pro governo. I risultati non sono ancora definitivi, ma è già dovuta intervenire la sicurezza. Se fossero confermati i risultati parziali delle elezioni presidenziali in Bolivia, Evo Morales potrebbe essere sulla strada per ottenere un quarto mandato. Con il 95% dei voti scrutinati, l'ufficio elettorale ha riferito che Morales risulta in testa con il 46,86% dei voti, seguito dal rivale predecessore Carlos Mesas. Se uno dei due candidati non supera il 50%, ci sarà uno scarto di 10 punti, ci sarà il ballottaggio tra i primi due piazzati il 15 dicembre. Sale a 12 il bilancio delle proteste in Cile. Le ultime 3 persone sono morte, 2 carbonizzate durante un saccheggio di un grande magazzino di materiali per l'edilizia dove si è sviluppato un incendio nella regione metropolitana. L'altro poche ore fa travolto da un camion militare. Intanto è imposto stato di emergenza anche nelle zone turistiche popolari. Il presidente Piñera dice: I'm convinced that democracy not only has the right. Siamo in guerra contro un nemico potente e implacabile che non rispetta nulla o nessuno e usa la violenza e il crimine senza limiti. La democrazia deve difendersi. 1900 le persone arrestate, 3 giorni di coprifuoco, i militari sono in strada per la prima volta dalla dittatura militare di Pinochet che governò dal 1973 al 1999. La rabbia esplosa venerdì quando la gente si è vista aumentare drasticamente il prezzo dei biglietti della metro, nonostante un tasso di crescita che dovrebbe raggiungere il 2,5% del PIL quest'anno. Diversi indicatori sociali come salute, istruzione e pensioni mostrano diseguaglianze molto elevate. Intanto il capo dell'Ufficio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha chiesto un'indagine indipendente sulla morte dei manifestanti durante le proteste, citando inquietanti accuse di uso eccessivo della forza da parte dei servizi di sicurezza. Il bilancio delle vittime potrebbe arrivare a 13, con 44 feriti, 9 dei quali gravemente, ha detto la Bachelet, citando dati del Human Rights Institute. Russia varia per un sottomarino nucleare che non è riuscito a lanciare un missile durante una grande esercitazione. Il presidente Putin ha rimosso diverse figure dell'opposizione dal suo consiglio per i diritti umani, privando l'organismo, dicono i critici, della sua legittimità. Pakistan, l'ex premier Nawaz Sharif in prigione per corruzione è stato ricoverato in ospedale per un controllo medico. Kashmir, decine di politici sono stati arrestati in una nuova azione di Delhi dopo che è stata revocata l'autonomia della regione contestata. Se vogliono uscire devono firmare un accordo di silenzio in cambio della libertà, una cosa che viola apertamente i diritti di libertà di parola sanciti dalla Costituzione indiana. 2 donne sono già state rilasciate dopo che avevano firmato promettendo che avrebbero smesso di denunciare le condizioni a Jammu e in Kashmir. Chi firma non può fare commenti, rilasciare dichiarazioni, tenere discorsi in pubblico o partecipare ad eventi relativi al Kashmir. Cina ha vietata l'esportazione delle magliette nere a Hong Kong, ritenute l'uniforme della protesta pro-democrazia. E da parte nostra anche per oggi è tutto. Grazie di essere stati con noi. Se volete sostenerci, siamo una testata indipendente, potete andare su www.radiobullets.com/sostienici. E poi appuntamento a domani per una nuova raffica di notizie. What do you do?

Satan. Stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione. Più che una rotta dell'informazione, siamo una rotta del liberismo e delle ricette di mercato, e di questo parleremo. Buongiorno comunque a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Zanardi dentro la rassegna stampa, 9:29 minuti di questo 22 ottobre, martedì. E allora cominciamo con la fascia nordafricana, e che abbiamo già visto la Tunisia, le rivolte in particolare capitanate da donne e giovani. Continuiamo con la pagina del Libano e le Hariri, elezioni anticipate. Banche chiuse oggi in concomitanza col quinto giorno di proteste contro il governo Saad Hariri. L'ABI, associazione bancaria libanese, ha annunciato gli istituti di credito resteranno chiusi in attesa del ripristino della situazione generale nel paese. Quindi c'è un totale caos in Libano per motivi appunto di sociali. Ieri il governo aveva tenuto una riunione annunciando il taglio degli stipendi per i ministri e funzionari pubblici, ma le misure non sembrano placare il malcontento. Rimaniamo in piazza fino a quando tutto il sistema politico non si dimetta. Non bastano queste riforme, non bastano le dimissioni del governo. Se i manifestanti vogliono elezioni legislative anticipate, sosterrò la loro richiesta, dice il premier Hariri, che ha proseguito: i giovani libanesi rivendicano la loro dignità, non permetterò a nessuno di minacciarli, lo Stato ha il dovere di proteggerli. Quindi fallimento in Libano, come fallimento in Tunisia delle ricette liberiste. E va da sé che questo ci porti immediatamente, sorvolando Hong Kong, sorvolando tanti altri paesi, ci porta in America Latina, che vede l'articolo di Roberto Darin nel Caro Vita, descritto dal Sole 24 Ore, da cui sto leggendo: proteste e violenze, parte dal Cile il malcontento dell'America Latina. Naturalmente i militari, i carabinieri sono in piazza, risvegliano il fantasma di Augusto Pinochet, ma è chiaro che la situazione è tutta nuova ed è un'altra fase della rotta capitalista. 11 morti, oltre 170 arresti, il bilancio degli scontri in quel di Santiago, quindi un bilancio davvero pesante. Protesta anche in Ecuador e Argentina contro la perdita del potere d'acquisto. Quindi il primo punto non è il Cile, è il problema che attraversa dal Venezuela all'Ecuador fino all'Argentina e il Cile, tutta la situazione dell'America Latina. E non basta questa descrizione molto tranquillizzante, un po' criminalizzante, che ci dà il Fatto Quotidiano, che vede nella sua pagina estera fonte forse il punto più basso di questo giornale, perché prende pari pari dal Financial Times, come dire super partes Financial Times, uno dei tempi del capitalismo. Troppe ineguaglianze, comunque ammette anche il Financial Times. In Cile c'è una rivolta come i gilet gialli, credo che le condizioni in Francia sono diverse da quelle del Cile, ed è soltanto l'inizio, a differenza dell'Ecuador, ma non c'è una opposizione compatta, ma una protesta dispersiva, e il paese non è stabile come si crede, ma è molto latinoamericano, quindi c'è anche un pizzico di razzismo, sono cose tribali. Ma lasciamo perdere il Fatto Quotidiano e la sua brutta pagina internazionale e veniamo al giornale. Il Cile brucia ancora, 11 morti e 1900 arresti. Piñera, il presidente di destra, è una guerra. Peraltro vi è smentito da anche il capo di Carabineros, dice no, io non sono in guerra contro nessuno, ma Piñera dice che è una guerra perché sarebbe un complotto, questo è il suggerimento che arriva dal Nord America, castrista, guevarista, maduriano, quant'altro. Mentre in Venezuela Maduro dice che è un complotto di Stati d'America, ovviamente. Il presidente di TV chiede unità al paese, ma gli scontri proseguono. Domani si registra sciopero generale. Nel frattempo, sempre per quanto riguarda l'America Latina, mi sposto in Bolivia. Caos elezioni, risultati bloccati al tribunale, Mesa parla di brogli. E assolutamente passiamo a pagina 12 e a pagina 13 di Repubblica. Nelle strade di Santiago, studenti contro soldati, ora siamo in guerra. Le immagini non lasciano scampo. Settimo giorno di protesta, almeno uno degli 11 morti colpito dalla polizia. Il paese è in tilt, bancomat e supermercati dati alle fiamme. Ovviamente, già solo dalle parole, rincaro dei trasporti, vittime, coprifuoco, ritorno a un incubo, quell'incubo chiamato Pinochet. Nella capitale Santiago, dove le manifestazioni si sono fatte più violente, è stato dichiarato lo stato di emergenza ed è scattato il coprifuoco, misura che non si vedeva dall'87, durante gli ultimi anni della dittatura di Augusto Pinochet. L'esercito presidia le strade, le misure eccezionali sono state estese a 9 dalle 16 regioni del paese. Le vittime, già 1500 feriti, 11 morti, saccheggi, devastazioni di supermercati e uffici, stazioni dei treni e del metro. Il titolo principale del manifesto, in prima pagina, i fantasmi del Cile. Io ho parlato di incubo, fantasmi, i carri armati per le strade hanno riportato la memoria ai tempi di Pinochet. Il servizio a pagina 2 a pagina 3 è quanto mai intenso e soprattutto partecipato anche da intellettuali. Luis Sepulveda fa rabbia il ritorno a tempi che credevamo separati. Quando lo Stato inizia a praticare la violenza va incontro a una risposta violenta. Parla anche Alejandro Zambra. Il nodo è la disuguaglianza e intimidisce chi lotta. Elezioni, tra l'altro, spostandoci di poco in Bolivia, Morales stecca al primo turno. Sarà ballottaggio. Di questo vedremo più tardi i dati. Rivolta popolare contro il governo di Piñera, 11 morti, ieri erano 3. Il saccheggio dei territori inoltre va ad arricchire alle spalle dei Mapuche e degli altri popoli indigeni, un gruppo di privilegiati insieme alle multinazionali straniere. Chiudiamo con La Stampa. Questa parte dedicata al Cile, come vi dicevo, e al Sud America, coprifuoco esteso, morti e saccheggi, il presidente Piñera dichiara, tanto per rassicurare un po' le cose, il Cile è in guerra. Restiamo, come ho detto, nel continente citato, accusato di brogli, Morales è costretto al ballottaggio. Sto parlando delle elezioni in Bolivia. Mi sposto, per quanto riguarda tutto ciò, al manifesto che poco prima dava a sua volta i dati, 45.2 rispetto al 60% del 2014. L'ex presidente Carlos Mesa al 38,1. Comunque, i 5 giorni del Condor, l'ultimo smacco agli Stati Uniti d'America, proteggeremo i pozzi di petrolio. Questo è sempre esteri, è la Siria, ma gli Stati Uniti d'America ci sono sempre in mezzo. Il titolo è sempre riportato con una triste incubo e fantasma del Sud America, cioè appunto l'operazione Condor. E allora soffermiamoci sul Cile, perché ne parliamo con l'esule cileno in Italia, David Muñoz Guterres, interpellato dalla nostra redazione. Sentiamo le sue risposte. In Cile è da molto tempo che succede che la gente non ce la fa più a vivere, perché in un sistema di neoliberismo come quello che si è installato durante la dittatura e i cosiddetti governi democratici che sono venuti dopo non sono riusciti a eliminare, e quindi tutto è privato, tutto è privatizzato. E quindi la gente deve pagare tutti i tipi di servizi, dal trasporto alla sanità, tanto per dirne due. I salari sono molto bassi. Il salario minimo è stabilito dal governo all'inizio dell'anno ogni anno. Oggi il salario minimo sono 230.000 pesos e l'euro sta a 700 pesos, quindi pochissimi soldi, e con quello la gente deve far fronte a tante spese come in tutto il mondo. In pochi mesi, nell'ultimo tempo, hanno raddoppiato il prezzo del biglietto dell'autobus per gli studenti dalle scuole elementari all'università. C'è una specie di buono, diciamo un biglietto particolare per gli studenti, ma questo è stato aumentato praticamente del doppio. Questo ha fatto scattare la mobilitazione prima di tutto degli studenti, che sono andati a prendere il metrò, invece di pagare il biglietto saltavano i tornelli, invece di pagare il biglietto lo saltavano, ma in grande massa, grande quantità di studenti, come tutte le mattine, che vanno a prendere il metrò, e più hanno invitato alla gente normale, diciamo lavoratori, signore, eccetera, a fare lo stesso, a evadere il pagamento del biglietto. Questa è stata la prima manifestazione grande, grandiosa, perché studenti in grande massa hanno occupato praticamente le stazioni del metrò, e i carabinieri all'inizio non sapevano dove sarebbe stato il secondo focolaio, quindi facevano una stazione, dopo facevano un'altra stazione e così via. Alla fine l'impresa di trasporto ha chiuso totalmente tutte le stazioni del metrò, perché non riuscivano a controllare questo fenomeno. Nei giorni seguenti i sindacati, che non sono molto rivoluzionari, si sono piegati a questa manifestazione e hanno cominciato a mettere sul tavolo anche organizzazioni sociali, popolari, dei quartieri, e qualche movimento politico pure si è risvegliato, come il Frente Ampio, eccetera, e hanno cominciato a mettere sul tappeto tutte le richieste che venivano facendo diverse organizzazioni negli ultimi anni, da eliminare per esempio il sistema di pensioni, che lì è totalmente privatizzato e fa sì che un lavoratore, non so, un insegnante che ha lavorato 30 anni a scuola se ne va a casa con una pensione minima, perché è assolutamente contributivo il sistema pensionistico in Cile attualmente, è consegnato a delle imprese private che gestiscono questi fondi pensioni, e quindi le imprese ci guadagnano e al lavoratore gli viene data una pensione divisa per ipotetici anni di sopravvivenza che avrà dopo di essere andato in pensione. Quindi è una cosa realmente criminale. Ti posso dire che io avevo uno zio che le hanno detto: quanti anni pensa lei che vivrà? E lui ha detto: non so, arriverò a 75 anni, 80 anni. E il monto della sua pensione era divisa per gli anni che lui aveva detto che poteva vivere, quindi le davano tipo 200.000 pesos al mese. E il fatto è che i soldi sono finiti e lui era ancora vivo, e dopo non ha ricevuto più niente. Questo è il sistema di pensioni che c'è in Cile, e quindi la gente è incavolata, stanca di tutti questi soprusi che ci sono stati in questi anni, e stanca anche della politica di privatizzazioni totali. Hanno messo all'asta l'acqua di due fiumi, cioè qui siamo al ridicolo totale, cioè vanno a privatizzare perfino l'acqua dei fiumi. Questa situazione qui ha fatto sì che dalla protesta degli studenti si sommassero tante altre persone, si sono fatte tante altre iniziative, marce, le casseruole delle pentole, la marcia con i suoni delle pentole, in molte città piccoline anche, e quindi pacifiche, questo bisogna dirlo, perché adesso in questi giorni purtroppo credo che abbiamo già una decina di morti, ma la violenza è stato registrato da tante persone, si produce con delle persone che sono come i black box, si coprono il capo, vanno con questi passamontagna, e hanno notato che la polizia si ritira, i carabinieri si ritirano quando questi agiscono, e addirittura quando i saccheggi dei grandi supermercati, l'esercito sta a guardare mentre loro, però se appaiono gli studenti a fare una manifestazione picchiano, e c'è già qualcuno che è scomparso in questi giorni. E infatti, okay? Io ti volevo fare una domanda proprio sulle misure decise dal presidente Piñera, no? Questo stato di emergenza con i coprifuoco che non si vedeva insomma dai tempi di Pinochet. Esatto. Tutti stanno chiedendo che Piñera ritire l'ordine ai militari di andare in strada. Lui ha consegnato assegnato la città di Santiago e tutta la regione metropolitana di Santiago ai militari, e questi prendono il potere praticamente, perché i decreti li fanno loro. Il coprifuoco lo hanno lanciato prima dalle 10 di sera alle 7 del mattino, poi lo hanno fatto dalle 7 di sera alle 7 del mattino, cioè comandano loro, e questa è una cosa molto pericolosa, che a chi ha vissuto la dittatura le porta questi ricordi tremendi. Quelli che non l'hanno vissuto sanno adesso cosa vuol dire militare per le strade, che hanno scatenato una violenza enorme. In queste violenze si sono distrutte una quarantina di stazioni del metro. E cosa stanno facendo praticamente tutti i sociologhi, tutti quelli che studiano queste cose qua? Dicono che la tecnica è quella di fare incacciare la gente per le distruzioni, per i vandalismi, eccetera, eccetera, e questa gente poi va a chiedere ancora più sicurezza, quindi più soldati sulle strade, e poi da lì ammassiamoli tutti, e quindi mettere il popolo contro il popolo, una parte del popolo che sta relativamente bene con l'altra parte che non ce la fa più. Piñera ieri sera ha fatto una dichiarazione, e la sua dichiarazione è partita con le frasi "siamo in guerra", invece di dire dobbiamo trovare gli interlocutori delle organizzazioni sociali per vedere di risolvere i problemi, perché la gente si è stancata di 30 anni di soprusi, oltre che 17 anni di dittatura. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali. Ringraziamo Muñoz Guterres per questo commento, che ci riporta appunto a uno schema anche più generale che, ahimè, va ben oltre il Cile, anche se il Cile sebbe già di per sé fin troppo grave. Eppure il Corriere del Cile non facendo, perché evidentemente non si vuole sporcare le mani con questa lotta civile e sociale. E invece c'è mezzo paginone, anzi tre quarti di paginone, dedicato a William contro Harry, sei troppo fragile, i principi sempre più divisi. Questa è una vera tragedia. Crisi senza precedenti, ah, tra i due fratelli, innescata da Meghan. Questo è il Corriere della Sera. Ma ringraziamo il Corsiera perché ci porta in Europa. In Europa, evidentemente, la situazione più ricca, le contraddizioni esplodono meno traumaticamente forse che altrove, anche se vediamo che la Catalogna, siamo a una sommossa impresa giovanile totale. E tornano anche ombre per quello che può essere l'Irlanda del Nord, quindi con l'eventuale chiusura delle frontiere tra l'Eire e l'Ulster. Però andiamo a vedere la Brexit. Brexit è lo schianto dello speaker. Il presidente del Parlamento, forse il volto più noto del Parlamento in questo momento inglese, anzi, pardon, mi scusi, la regina del Regno Unito, ci mancherebbe. Il presidente del Parlamento rifiuta il voto sul piano Johnson, che oggi tenterà l'ultimo assalto. Johnson ormai è in una condizione completamente extra legale, va avanti all'arma bianca, come anche lui, come la Meloni in nome del popolo. Berkov, che è questo speaker, non si commuove. Brexit è ancora rimandata, anche perché hanno votato la stessa cosa due giorni fa. Non si può votare il Parlamento per stanchezza. Questo. Lo speaker dei comuni ha respinto la richiesta del governo di votare dopo la bocciatura di sabato. L'opposizione ha un piano alternativo. Infatti c'è una strana alleanza. Labour, cioè la sinistra, la democratica, e il DAP, che è la destra orangista delle Irlande del Nord, insieme per restare nell'unione doganale e ottenere un nuovo referendum. Questo è il quadro che ci dà il Fatto Quotidiano. Mentre il giornale... Brexit scacco a Boris, no un altro voto sull'accordo con l'Unione Europea. Per lo speaker Berku, la mozione è già stata discussa, non per lo speaker, per tutti i giornali e i media di informazione del mondo è già stata discussa. Johnson contro la volontà popolare, ecco qui che c'è il famoso mantra di un qualche sondaggio. No, ma infatti appunto io sono molto contento che tu abbia trovato una parte così ricca nei quotidiani da te selezionati sulla Brexit. Da me è più difficile, perché appunto ne abbiamo parlato ampiamente in altri giorni e nuovamente si ripropone situazioni che abbiamo già analizzato, per cui insomma più che la famiglia reale che hai citato giustamente abbiamo delle più la slonga più a se scappa, come si dice a Bologna, e tanto mai incertezza presente all'interno di queste realtà. Dagli Stati Uniti invece, dalla Brexit, scusate, ma gli Stati Uniti in questo caso sempre presenti sono, mi sposto in Medio Oriente per la guerra in Siria. Stati Uniti pronta ad azione contro Ankara, la nostra pagina degli esteri, ricchissima anche per questa giornata. Pompeo, Trump non esclude l'ipotesi militare. Erdogan, Occidente a fianco dei terroristi. E quindi, come si diceva, il livello in questa situazione di polveriera continua a salire e l'articolo di Marco Bressolin, noi preferiamo la pace alla guerra, ma dai, ma se un'azione militare dovesse diventare necessaria, dovete sapere che il presidente Trump è pienamente pronto a intraprenderla. L'avvertimento che il segretario di Stato americano Pompeo ha inviato ad Ankara durante un'intervista alla CNBC è il più duro lanciato da Washington dall'inizio della crisi siriana. Quindi due grandi potenze che insomma non sono certamente lì per guardare, sono lì per il petrolio, per il potere territoriale e per la presenza in una zona strategica del mondo. Poi mi sposto perché c'è un altro protagonista che chiaramente all'interno di questo scacchiere è un vicino a tutto ciò. Sto parlando della Russia. In questo caso però faccio un salto indietro nel tempo perché a pagina 9 della Stampa di Torino, nella Chernobyl fantasma dei turisti dove le radiazioni uccidono ancora, la centrale del disastro dell'86 è una meta di attrazione di visitatori. Certo che il turismo per andare a vedere queste situazioni gravi e di tragedie, boh. Le guide, non toccate la terra per non sollevare le particelle radioattive. Che bel weekend che si fa uno per andare a vedere le situazioni gravi che hanno lasciato una centrale che è andata così alla malora, rendendo il territorio invivibile. Ma non solo, perché per quanto riguarda gli esteri e tornando per meglio dire, nella zona del Medio Oriente, ricordate della ragazza appunto uccisa in prima pagina da Repubblica, riportata Xelef, uccisa, giovane donna, 34 anni, parla la madre dell'attivista curda assassinata. Ho sentito come uccidevano la mia Hevrin, l'ho sentita morire, ascoltato gli insulti rabbiosi che degli sconosciuti urlavano alla figlia durante l'agguato sull'autostrada, poi quella scarica di Kalashnikov, anche al telefono inconfondibile e definitiva. Hevrin Min, gridava Suad, mentre gliela stavano ammazzando in diretta. Ripete anche adesso la sua mamma, dall'attivista curda, mentre parla attraverso WhatsApp dalla sua casa di Derrick, con le tapparelle abbassate. Il lutto dentro, posso immaginare la tragedia di una madre, dalla casa propria, significa la mia Hevrin, in curdo, per Suad, tutto ciò che contava. Una decina di giorni fa, all'improvviso, il mondo ha celebrato la figura di questa giovane donna, giovane paladina dei diritti delle donne, trucidata il 12 ottobre dai miliziani che mostravano la bandiera di Ahrar al-Sharikiyah. Sì, e allora le donne in prima fila hanno resistenza contro l'ISIS, in prima fila essere massacrate dal tradimento americano dell'invasione turca. Il reportage di Lorenzo Cremonesi va a una cosa che giustamente Cremonesi dice forse può sembrare anche secondaria in questo grande massacro, ma è significativa. Lady Fit, la palestra delle giovani curde, ora chiuderemo. Le donne verranno, i jihadisti ci cacceranno. Quindi è ancora forse più bruciante il passaggio allo schiavismo dell'integralismo islamico dopo che hai vissuto una primavera di libertà. Durato meno di sei mesi il nostro progetto della prima palestra femminile di Rojava andava benissimo, ma la minaccia di invasione turca assieme alle milizie sunnite siriane di Odor di Jihad mette in tutto il pericolo, rischiamo di dover chiudere. Dice appunto Cremonesi, potrebbe sembrare un dettaglio, un'inezia, davanti alla tragedia dei curdi abbandonati dagli americani, in realtà dell'intero mondo occidentale che li aveva letti a testa di ponte nella battaglia contro l'ISIS, che senso ha concentrarsi sulle lamentele della 26enne Dana Farman e le traversie del Suqleb per sulle donne, le defeat, in piena crisi? Da lei ci è condotto una giovane giornalista locale di mattina, proprio il giorno prima dello scadere stasera dei 5 giorni di tregua tra i curdi e i turchi. La nostra guerra contro ISIS in generale in opposizione al regime islamico è stata anche culturale e sociale. Le donne ci fanno ginnastica e si trovano libere tra di loro, sono la nostra risposta alle schiave del sesso imposte al califato, alla concezione della donna totalmente servita all'uomo, ai figli, alla tradizione, spiega Dana. Il club è stato aperto il 1° maggio scorso nel cuore di Karmashili, un edificio basso con insegne Lenese Rosa, andava benissimo, era partecipata, ma adesso appunto verrà chiuso. Anche perché, dice Rahman, voce curda dal Fatto Quotidiano, abbiamo sbagliato a fidarci degli americani, dobbiamo fare i nostri interessi, non quelli degli USA. Ora siamo ridotti male, il regime di Assad è l'unica salvezza. Ora, quando Assad diventa una salvezza, davvero c'è da piangere. Allora, c'è un'immagine che è l'ombra della bandiera americana militare, quella dell'evocazione dalla Cambogia, dagli elicotteri e dal Vietnam, incalzati dai Vietcong, eccetera. e che è stata una disfatta per l'esercito americano. Ci resta un'altra ombra, un'altra macchia, quello che è il ritiro della vergogna, curdi, frutta marcia sui blindati americani. Può simeggiare la frustrazione di questi Marines, no? La colonna alleata è arrivata a Kamshile, i civili hanno dato sfogo alla rabbia, intanto al fronte i jihadisti si danno ai saccheggi protetti dalla Turchia, e questa è la famosa guerra contro l'integralismo dell'Occidente. Trump ha detto che lascerà i suoi 200 soldati alla guerra dei pozzi del petrolio, vogliono solo quella, intanto noi veniamo massacrati, dice un'altra voce del Kurdistan. Quindi e poi andiamo invece in Oriente, perché qualche notizia che ci ritira sul morale. A Tokyo Naruhito proclamato imperatore. Posso immaginare le dirette televisive, le gadget, le magliette, i ciondoli, i giornali di tabloid, ah che bella cosa. Comunque è asceso al trono del crisantemo con una elaborata cerimonia durante la quale ha proclamato la sua intronizzazione, cioè intronare, al palazzo imperiale di Tokyo. Ah, io amo gli imperatori. Devo dire che questo amo anche i re. Perché in Thailandia, proprio i diritti delle donne, in Thailandia il re ripudia la consorte è ambiziosa. Perché guai c'è una donna ambiziosa. La punizione a 3 mesi dalle nozze, l'ex concubina privata di ogni titolo. Questa è la Thailandia. Sì, allora parliamo appunto di ambizioni. Beh, per quanto riguarda le ambizioni, basta prendere Repubblica e andare a vedere pagina 6 e pagina 7. L'Europa. L'Europa è in primo piano e quello che succede per quanto riguarda l'economia. La Lagarde è ambiziosa. Falco o colomba? Beh, io un'idea ce l'ho. Eredita 3 sfide difficili e un board diviso. L'economia non riparte nonostante i tassi sotto zero. L'Unione Europea invia sulle riforme e i falchi chiedono rigore. Uno stop al ribasso del costo del denaro sarebbe un rischio per tutti. Dopo 8 anni alla guida della Banca Centrale Europea, Mario Draghi lascia l'Eurozona più forte di come l'aveva trovata, dice Repubblica pagina 7. La Banca Centrale ha convinto gli investitori che l'euro è irreversibile, ponendo così a fine alla crisi del debito sovrano che aveva travolto l'unione monetaria. Le banche sono molto più solide, sì, peccato che non siano solidi gli altri, soprattutto quelli più deboli. La loro vigilanza è stata spostata dai singoli stati membri a Francoforte, dove sono meno forti, e le pressioni da parte degli istituti di credito. C'è ormai un meccanismo collaudato per aiutare i paesi in difficoltà. Che infatti vedo, proteggeremo tutti. L'euro ha la mossa del 2012, è la chiave del suo successo. Insomma, veramente sembra che sia una grande forza e una grande prosperità che ci attende a partire dal benessere dalle banche, a pagina 7 di Repubblica, almeno per quanto riguarda le analisi sia di Draghi che della Lagarde. A pagina 14 invece, sempre riguardo al mondo, si parla di spending review dell'ONU. Basta feste, assunzioni e dossier troppo lunghi. Le Nazioni Unite stanno finendo i soldi, varano la loro austerity, ritardi nei versamenti dei contributi da parte di decine di paesi. Da New York, attorno al grande tavolo a ferro di cavallo del Consiglio di Sicurezza, dove si decidono questioni di pace e di guerra, di sanzioni e caschi blu, solo uno dei 15 ambasciatori ha diritto alla bottiglietta d'acqua a spese dell'ONU. È il presidente di turno del Consiglio, sudafricano Jerry Matthews. Gli altri, a cominciare dall'ambasciatore americano Cali Kraft, si devono portare l'acqua da casa. Credo che non necessiti essere euroscettici per sapere le spese faraoniche dell'Unione Europea. Solo quando si trasposta da Strasburgo a Bruxelles, tutti gli infaldoni costano ira di Dio, altro che bottiglietta d'acqua. Comunque, veniamo all'Italia che tu già introducevi con i rapporti con l'Unione Europea. Contanti e POS, le misure slittano, è il Corriere della Sera. Rinvia luglio, mediazione sulle modifiche alla manovra, tra i 4 conti di Maio. Maratona della maggioranza per trovare un'intesa, una lettera dall'Europa per chiedere chiarimenti sui conti pubblici, il famoso salvo intese. Ma la cosa curiosa che troviamo al Corriere, girando pagina, che sto leggendo, il premier e gli alleati, serve più credibilità, l'asse ritrovato quel leader di 5 Stelle. Se si fosse fatto come la prima Repubblica in cui i panni sporchi si lavavano nelle camere ministeriali, la contrattazione per più... E allora la manovra più forte, mettendo tutto sui social, sapendo minuto per minuto il litigato, che dice Tizio, che dice Caggia, cosa risponde Sempronio, cosa dice lei, cosa dice lui, cosa pensa la gente, dove sono, è il gioco del postino, insomma, ormai la politica, sembra che tutto sia... magari vengono alla luce, quindi le cose. Il risultato è, come dice il Gazzettino, fisco e manovra, fragile tregua. perché... E poi in questo clima di do contro da una parte, do contro quell'altra, è facile per chiunque stampo d'opposizione metterci anche delle cose che non c'entrano nulla, perché tutto diventa credibile. Ci aggiunge del suo Andrea Marcucci. E tanto per fare un esempio tra i tanti, non è perché c'è con Marcucci, che sappiamo essere un renziano rimasto con Zingaretti. Difficile pensare ai 5 Stelle come alleati strategici, tanto per avere un clima d'amicizia nel governo, no? Basta liti tra noi e Renzi, perché lui è più interessato non al governo, alla maggioranza, ma al suo ruolo di essere un renziano tra i zingarettiani, e quindi vuole amicizia. Marcucci, il PD non deve agire più di rimessa. Conte candidato al Premier farà le primarie, convincerà i nostri elettori? Allora direi proprio di no. Questa è un'altra dimostrazione di amicizia verso il Premier attuale, no? Questo, ed è tutto così, in un gioco sadomasochista, dove appunto poi tutti vengono battuti, le destre avanzano, e magari alla fine della fiera Renzi potrà avere un partitino al 6% quando gli altri hanno il 53%, il centrodestra, e non definirsi un Macron ma un Micron. Questo è il risultato della fiera, cioè i grandi risultati di questa mega politica così lungimirante, che a tutto meno che un tempo si chiamava una visione. La visione non c'è più. Manovra, tregua armata nel governo, resta il nodo flat tax, è il Sole 24 Ore. Intesa sul tetto al contante, sull'arresto per i casi gravi e di evasione fiscale. E qui allora, su questo tema, c'è i giornali del 5 Stelle, in qualche modo, che giubilano, cominciando la notizia. Carcere agli evasori e meno contanti. Di Maio batte Renzi su tutta la linea. Quindi prima non è, ancora una volta, battere la destra, ma è battere il vicino di casa, o meno lontano di casa, chiamiamoli così. Anche il Fatto Quotidiano, il giorno più nero per gli evasori. Manette nel decreto fiscale, accordo sulla legge Bonafede, pene da 4-8 anni più confische per le frodi sopra i 100.000 euro. E questo, e poi naturalmente... Il Fatto Quotidiano parla dell'incontro, anche qui illazioni, social network, vocine ben informate, corvi, chi lo sa, faccia a faccia, tregua tra Conte e Di Maio. Luigi ha letto cose brutte, bello che sembra l'incontro, no? Sempre quando si incontrano quelle vignette degli indigeni con Colombo, a Ugo, io essere grande padre, no. Luigi, ho letto cose brutte, Giuseppe, non ci siamo capiti. Forse speriamo che abbia usato anche qualche condizionale, qualche congiuntivo, magari anche buongiorno, chi lo sa. A Chigi il chiarimento tra il Premier e il Ministro degli Esteri, bisogna fare asse per reggere il governo giallorosso. Sì, invece l'argomento principale a proposito di politica interna, sia da Repubblica, anche la stampa, il Carlino soprattutto, si parla di Bancomat ed evasori. Il Carlino, che abbiamo, prendiamo insomma in questa parte di rassegna, Bancomat ed evasori, ecco l'intesa. Carcere per chi non paga le tasse. Cioè, voglio dire, la lotta all'evasione deve esistere, deve esserci. Non è uno scandalo se l'evasione viene colpita, perché sono soldi di tutti. Multe sul posto, limiti di 2.000 euro al contante rinviati dopo giugno. Questi sono i provvedimenti, pagina 2, pagina 3. Per quanto riguarda il carcere agli evasori, rinviate le multe sul posto. In cella per decreto chi evada oltre 100.000 euro. Sanzioni ai negozianti, ai limiti di 2.000 euro al contante solo dal luglio 2020. 7 miliardi di risparmi, la Fondazione Di Vittorio rifà i calcoli, soldi da usare per la spesa pensionistica. Secondo Fondazione Di Vittorio e CGIL, i risparmi di quota 100 delle altre misure previdenziali del governo ammonterebbero a 7 miliardi di euro. La richiesta dunque è immediata, vanno riutilizzati per la spesa pensionistica. Questo è quanto tra caccia all'evasione e per quanto riguarda anche la situazione contante su evasori e su evasori e contante, la spunta Di Maio. La stampa titola così: intesa sul tetto alle banconote, sarà in vigore da luglio, le obiezioni dei renziani, flessibilità e debito, oggi lettera all'Unione Europea, timori per l'incertezza politica. Questo è per quanto riguarda, come dicevo, un titolo che mette insieme diverse argomentazioni anche di rapporto con l'Unione Europea sulla stampa di Torino. Carcere agli evasori, tetto al contante, il Movimento 5 Stelle incassa tutto, tregua nel governo. Prima dell'avvio il taglio delle commissioni bancarie, sarà 100.000 euro la soglia che fa scattare l'arresto. Il capo del governo vuole utilizzare uno dei 21 disegni di legge delega, nella notte di trattative le obiezioni dei renziani. E poi, attenzione, sempre di politica interna, l'avviso di Salvini a Mattarella. In caso di crisi, questa volta si voti. Ripartono gli attacchi del capo leghista con due obiettivi, mettere a nudo i contrasti nel governo e spianare la via delle urne se dovesse saltare Conte. Ma il Colle non si fa trascinare nella rissa, cioè per Mattarella. Al Quirinale non sfuggono le difficoltà della maggioranza nata solo 2 mesi fa. Retroscena, pagina 2 della Stampa. Proseguiamo. Come già diceva Alfredo, Conte, Luigi, qui non posso guardarmi anche da te. Discrezione e diserzione di massa dei deputati Movimento 5 Stelle in Umbria. Impasse sul capogruppo. Giuseppe Conte dichiara, tu eri a Washington, ma c'erano i tuoi ministri. Più che con me te la devi prendere con loro. Queste cose non ci fanno bene e tu lo sai perché hai subito sulla tua pelle le mosse di Salvini. Insomma, sembrano più il motivo di rinfacciarsi di due teneri affari piuttosto che in aspetti di politica, almeno così come viene riportato dalla Stampa. La Stampa e la Repubblica, la tregua, compromesso sulle partite IVA, verso rinvio su contante e multe per il banco, matlite finale sul carcere agli evasori. Questo l'abbiamo riportato e lui lo riporta a fotocopia. L'ultima richiesta all'ex sponsor, basta fuoco amico, dice Conte. E Di Maio, in attacco per paura di vedersi strappare la guida del Movimento 5 Stelle. Questo è la Repubblica. Concludo con il Manifesto, che ricollegandomi all'argomento invece di cui si parlava in apertura e riguarda il mondo, qui invece torniamo e vediamo com'è l'Italia. La povertà minorile, intanto, tra una bagatella e l'altra, è triplicata in 10 anni. Italia, la denuncia è curata da Save the Children. Nel frattempo, così in Italia la ricchezza è cresciuta più del reddito. Quindi in questo bailam, in questo fango, chi è più ricco diventa ancora più ricco, chi è più povero diventa ancora più povero, ma guarda un po'. E la società, il signorile di massa, dice Dario Di Bico, interpellando Ricolfi, il nostro è un tipo unico di configurazione sociale, famosa mancanza di mobilità sociale. Ma poi si va alle elezioni, domenica si vota in Umbria, il centrodestra è avanti nei sondaggi, quindi Salvini fa la voce grossa, mentre Conte dice non è un test per il governo, perché appunto... non vuole che piova sul bagnato. E allora Umbria già gli dà la rosa con le mani avanti, non è un test su di noi. Domenica si vota, duello televisivo per i candidati Tesei e Bianconi, il civico cauto, nessuna ricaduta sul governo, appunto, di leggo dal Fatto Quotidiano. Aiutino da Palazzo Chigi, ieri viene approvato il decreto terremoto, sgravi incentivi per le imprese dell'area. Il Giornale poi ogni giorno trova Conte delle cose terribili su Conte, poi le trova solo lui, riprese magari dalla Verità al massimo, e poi finisce lì. Oggi è di turno questa: Conte e suo suocero rischiano la galera. Paradosso giustizialista. Il premier ha sanato una cartella da 50.000 euro, il parente ha patteggiato e con le manette agli evasori sarebbero guai. Questo non è vero, ma insomma, perché comunque sia la storia, che non conosco, evidentemente non entro nel merito, è retroattiva questa cosa, quindi non esiste. Ma comunque, mentre la Verità oggi dice questa, sempre della serie, tanto chi può smentirmi, domani i giornali si buttano nel cestino, si passa ad altre notizie, chi si ricorda più, blatterano di rivoluzione verde ma poi tassano l'energia pulita. Ecco, questo così per la cronaca, questo che sembrava impossibile è una costola impazzita di Libero, sembrava, no, che non c'è, ma invece ci dimostra che non c'è fondo al fondo questo. Ma invece vado a una gran voglia di restaurazione, e allora un'occasione è la nave per il ventennale della morte di chi? Di Craxi. Quindi non si celebra Einstein, non si celebra neanche Gramsci, ma si celebra Craxi. Allora, il cappio leghista sull'arca di Craxi, perché ci sarà un'andata di massa da Mametta a mettere un fiore sulla tomba del grande evasore fiscale. Questo è quanto. Ma non è più tempo, dice Mantovano Caporale con ironia malinconica dal Fatto Quotidiano, non è più tempo dei vecchi compagni d'armi, non più, non solo Ugo Intini, Claudio Martelli, Maurizio Sacconi, Renato Brunetta, ma Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri, Caterina Caselli, manager musicale di prima grandezza, Edoardo Bennato, e almeno un centinaio di deputati da ogni svezzati al tempo del garofano, cresciuti grazie a Bettini e oggi mischiati nel Parlamento. Da Guglielmo Epifani in poi, la lunga lista di chi porterà un fiore chiamato al ricordo, all'ardore di quel tempo, anche alla malinconia è struggente. Anch'io, scusate, non riesco a trattenere le lacrime. Beh, come dare torto ad Alfredo in questo caso, perché la cronaca ci riporta quello di cui vi parlavo in precedenza: ladri di futuro, scuola senza investimenti, edifici insicuri, i sindacati, una cronica disuguaglianza. Siamo a pagina 11 del Manifesto. Scandalosa povertà tra i minori è triplicata. è aumentata in 10 anni, e poveri 1 su 3, 2 su 5 lasciano la scuola. Anche questo è un dato non indifferente, cioè siamo vicini a un ragazzo su 2 che non segue lo studio. Le seconde generazioni sono senza cittadinanza. Parlavo giusto qualche giorno fa che di integrazione e di una possibilità che abbiamo importante, che è nelle scuole, cioè avere ragazzi di ogni paese che hanno la possibilità di stare insieme, e questo veramente potrebbe essere uno slancio per il futuro non indifferente. Certo, deve esserci una scuola attrezzata, ovvio, e ci mancherebbe. Dalla scuola, dal futuro, dalla situazione per i più giovani, passiamo alla giustizia, sempre sul Manifesto, ergastolo o statino, non c'è rieducazione senza speranza. Parla il costituzionalista Marco Ruotolo, Roma 3. La Consulta potrebbe oggi decidere di restringere l'applicazione ai soli mafiosi. Se ne parlava, no, di questa realtà pochi giorni fa. Il detenuto, per cambiare, deve poter immaginare un futuro in libertà, una prospettiva. Cioè, il carcere di base non è rieducazione, è una proposta, diciamo, dopo dei percorsi a un rientro nella società, così mi pare, almeno da Costituzione, almeno in uno Stato progressista e democratico. Una prospettiva che dipende dal suo comportamento, dalla collaborazione con gli inquirenti, ma non solo, insomma. Questa è la pagina 10 del Manifesto. Restiamo appunto sul Manifesto perché si parla della prescrizione, restiamo quindi in tema giustizia. Lo sciopero degli avvocati e la maggioranza al palo, posizioni ancora distanti tra Bonafede e il PD per questa importante realtà. E l'articolo è collegato, ovviamente, visto che si parla di giustizia, alla situazione di evasione, economia e quant'altro. Fermavo, o almeno mi sto recando, su Repubblica, perché a proposito anche di un'altra situazione dove sono andati, come si dice, in tasca per creare del disordine o del dissesto, anzi un santo dissesto, a pagina 8 dice Repubblica, il cardinale Maradiaga, il Vaticano non farà crack, vogliono colpire il Papa. Ovvio, sono andati in tasca per creare questo dissesto, ci vogliono screditare, prima dipingendoci in maggioranza come pedofili e ora accusandoci di noncuranza economica. Le ultime fughe di notizie hanno l'obiettivo di destabilizzare sia la gendarmeria sia la Chiesa stessa nel momento del sinodo. Parte della Chiesa degli Stati Uniti d'America fa finta che l'enciclica ecologica di Francesco non esista, ma guarda un po', preferiscono le donazioni dei petrolieri. Oh, hai sentito, Alfredo? Questi dagli Stati Uniti d'America preferiscono, piuttosto che l'enciclica del Papa, i soldi delle grandi famiglie texane. E questo mi meraviglia, perché pensavo fossero uomini, sì, di una certa spiritualità. Detto questo, do you remember workers? Vi ricordate, sì, il mondo del lavoro e dei lavoratori? Noi un qualche volta sì. Il porto di Genova, leggo dal Fatto Quotidiano, si mobilita contro il Job Act, quello che rimpiangono alla Leopolda di Firenze. Per licenziamento di un dipendente, il 31 ottobre si fermerà tutto lo scalo. E c'è uno striscione: i diritti dei lavoratori non si toccano. Che ahimè non si dovrebbero toccare, andrebbe corretto, perché i tempi sono quelli che sono. Rivolta dal basso, comunque, perché le energie popolari ci sono, ma anche appunto chi le gestisce, chi le indirizza, chi ne fa anche carne viva per la democrazia, ma anche un partito, insomma. Rivolta dal basso, la sollevazione è guidata dai collettivi autonomi e sta coinvolgendo i sindacati. Sempre da serie manca un partito, ma le energie ci sono. Gli schiavi dell'Agropontino in piazza. Mai più 4 euro all'ora, questi lavoratori per lo più stranieri, contro il caporalato. Lavoriamo tutti, c'è Parasat Singh, pakistano, lavoriamo tutti i giorni senza pause per guadagnare 1000 euro al mese. Come fa la mia famiglia a raggiungermi? E già, anche perché se avessi soldi, poi ci pensa Salvini a mettere un veto. Comunque, detto questo, vado ai lavoratori italiani, o anche stranieri, non so chi ci lavori la Whirlpool. Sciopero generale per la Whirlpool, a Napoli il 31. Sull'avvertenza Whirlpool si va allo sciopero generale provinciale di Napoli il 31 ottobre a proclamarlo CGIL e CISL napoletane. Per la FIUM l'avvertenza Whirlpool va riattivata immediatamente, non si può arrivare allo stop delle produzioni a Napoli senza aver riconvocato un tavolo. E poi mi sposto a Bologna, perché leggo dalla pagina del Corriere Bolognese: Just Eat licenzia Merola a boicottare la piattaforma, a rischio 40 riders. Di che cosa si tratta? Ce lo spiega la nostra redazione, perché dice che in un flash che continua la mobilitazione dei riders contro Food Pony, la società che gestiva il appalto, il servizio per Just Eat, con il licenziamento di almeno 40 fattorini. Ieri abbiamo letto anche il sindaco Merola ha invitato a boicottare Just Eat, che ha offerto di riassumere i riders, ma con condizioni peggiorative, cioè li licenzia e poi li riassume come quasi schiavi. Noi abbiamo sentito Lorenzo di Sociolog che segue questa avvertenza, e allora sentiamo le sue parole. Lunedì 14 ottobre, esattamente una settimana fa, è arrivata ai ragazzi di Food Pony, che sarebbe la società attualmente ancora appaltatrice con Just Eat, appunto, per l'assunzione dei rider, dei fattorini, è arrivato a questi ragazzi l'avviso che dal 23 ottobre non sarebbero più stati la società appaltatrice, quindi non avrebbero più mantenuto il lavoro dei rider. Quindi di conseguenza è iniziata una mobilitazione, è iniziato uno sciopero che più che altro, anzi soprattutto, chiede a Just Eat di assumersi la responsabilità di questa cosa, quindi chiede dei contratti regolamentari, dei contratti che diano garanzie e dignità ai lavoratori che erano assunti da Food Pony. Si parla di 40 rider, giusto? 40 persone? L'aggiornamento è che in realtà gli assunti da Food Pony fossero anche di più. Diciamo che i 40 rider sono un numero approssimativo di persone che regolarmente lavorano e hanno quel mezzo di sussistenza economica come unica forma di reddito. Gli assunti, quindi magari anche lavoratori più insomma sporadici, insomma ragazzi che magari facevano uno, due, tre turni a settimana, sono anche di più, si parla di oltre 60 licenziati di fatto. Alcune di queste persone avranno problemi ulteriori perché rischiano il permesso di soggiorno? Molti ragazzi sono studenti iraniani e di fatto avranno un problema col permesso di soggiorno, in quanto la motivazione per cui gli veniva rinnovato era proprio il rapporto di lavoro con Food Pony. Ecco, voi avete detto che proseguirà la mobilitazione. Sì, assolutamente sì. Gli scioperi sono proseguiti nel weekend, ieri sera è stato fatto anche un flash mob all'incrocio tra via Rizzoli e via Indipendenza, simulando di fatto la morte, il cosiddetto die-in, in cui i fattorini si sono sdraiati per terra simulando questa morte apparente. E gli scioperi proseguiranno, anche stasera saremo in piazza, saremo in strada. La stessa cosa vale nei prossimi giorni. Solitamente quando ci sono dei cambi di appalto ci sono delle clausole che salvano i posti di lavoro, ma la condizione dei rider è così precaria che queste clausole non ci sono. Esattamente, Just Eat l'unica proposta insomma ufficiale che fa è quella di offrire ai rider quella che è la nuova proposta lavorativa che Just Eat sta immettendo sul mercato, cioè quella di contratti da collaboratori occasionali che stanno già somministrando a nuovi assunti. Il problema che questo contratto è peggiore, nel senso che offre molte meno garanzie dal punto di vista innanzitutto del versamento dei contributi, dell'assicurazione INAIL, nonché dal punto di vista del salario, in quanto è un contratto che prevede una retribuzione a cottimo, quindi la soluzione che sta offrendo Just Eat è una soluzione a ribasso e non siamo disposti ad accettare questa cosa, e la mobilitazione proseguirà fino a che Just Eat non garantirà un reintegro totale immediato, almeno sulla base di quelle che erano le precedenti tutele, cioè un contratto collaborazione coordinata e continuativa, cioè il precedente contratto che era somministrato dalla società Food Pony. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Penne di classe e piume d'oca. E veniamo alla non notizia. Sull'Italia quando piove si allaga. Questo ormai è una cosa che uno può mettere anche come quelle cose, poi si staccano sul frigorifero. Domani alluvione nella mia città. Questa volta tocca a Milano. Milano si allaga, non dico la Liguria perché Liguria è ormai costante. Cioè, Liguria è come se non fosse abbastanza cemento, vogliono fare anche una gronda, fare di più di tutte le nuove autostrade, ma lasciamo perdere. Nuove scuole, scuole chiuse nel capoluogo lombardo, la Lega qui come a Roma. Stop che se sala Milano, allora devono attaccare Roma, che peraltro adesso il Tempo di Roma sta pompando lo sciopero generale di Salvini contro la Sragi, per cercando di dare una spallata alla sindaca di Roma. Comunque stop ai treni per la pioggia, circolazione interrotta su linee diverse, nell'Alessandrino un'auto travolta dal fango. Anche queste ormai sono notizie che non ci commuovono neanche più. Qualcuno che passa tranquillamente in macchina su un ponte viene portato via dalla piena, beh insomma fa parte della notizia giorno per giorno, ma il tempo purtroppo Liguria e Lombardia scout scuole e chiuse, mentre la Corriere di Milano naturalmente occupa molto del terreno con queste immagini di macchine che hanno l'acqua fino allo sportello, la maniglia, ma al tempo sott'acqua le sgallerie e 5 scuole. Traffico in tilt, disagi e polemiche, questa è una notizia appunto tipica dell'autunno. Sì, e aggiungiamo anche certo un autunno atipico, e aggiungiamo anche che non ci sono assolutamente manutenzioni per quanto riguarda gli scarichi, per la manutenzione delle strade, per la manutenzione del fondo di ogni percorso su strada, e quindi certamente il tempo lo sappiamo bene, ma quello che capita ogni volta, secondo me, è sempre qualcosa che va ad aumentare una situazione di pericolo. Intanto, come se non bastasse quello che abbiamo appena citato, dalla stampa di Torino succede appunto nella città della Mole: incendio doloso alla Cavallerizza, le fiamme nel cuore barocco di Torino, quando la città è assediata dall'incuria. Segnali di fumo arrivano da Torino, denunciano il rischio che le convenienze politiche delle amministrazioni pubbliche e gli interessi di una società civile concentrata su privati timori possono deturpare il volto e il patrimonio d'arte e di cultura di una delle più belle città italiane. Una bellezza riservata e silenziosa, trascurata dai grandi percorsi turistici internazionali. Incanta e seduce chi ha la fortuna di scoprirla. L'incendio alla Cavallerizza, uno dei tanti gioielli di Torino, nasce per un fenomeno di degrado urbano, tollerato da una politica che sulla meschina bilancia dei costi e dei benefici, almeno quelli immediati, misura solo il peso del consenso. Sono poi le parole anche, mi pare, ho letto velocemente, devo dire la verità, del giornale che attacca ovviamente i centri sociali, immagino. Sì, perché di chi è la colpa? Perché è un fenomeno tipicamente italiano, abbiamo una cosa che è patrimonio UNESCO ed è abbandonata e allora fortunatamente qualcuno la occupa che la tiene viva, altrimenti l'abbandono è ancora superiore. Collettivi, però il giornale qui la descrive: rogo alla Cavallerizza, il fiamme, il gioiello occupato dagli abusivi, quindi sono, che fa capire sugli abusivi che sono colpevoli delle, sì, fiamme, anche se non lo dice. Incendi all'alba, distrutta parte del tetto, i centri sociali, edificio, patrimonio UNESCO. Allora, però devo domandare com'è che era questo patrimonio UNESCO, era distrutto, disabitato, abbandonato a se stesso. Ringraziamo i centri sociali che l'ha mantenuto vivo, altrimenti appunto c'era un altro tipo di presenza, di degrado, abbandono, devianza. E allora il presidente Bernabé, ci sono dal Corriere, ci sono scritte sui muri: abusivi mai cacciati, è un degrado indecente, un bene sacrificato, come utilizzarla stupisce che non si sia trovata negli anni una soluzione adeguata per l'uso di quel sito. Questo cosa c'entrano gli abusivi, francamente non si capisce, perché gli abusivi ci sono perché il posto è vuoto fino a prova contraria, non occupano, che so, gli uffici di Firenze, per dirne un'altra. Comunque allora fiamme da una parte, pioggia dall'altra, insomma. Viene smentito Gianni Morandi. Basta con i sogni, ora sei tu che dormi, ora il dolore io lo conosco, quello che mi dispiace è quel che imparo adesso, ognuno pensa solo a se stesso. Bravo il Giallo Nazionale che ama la vita. Ma veniamo allora a qualche scampo di notizie, ma comunque assolutamente rilevanti, come quella del Corriere: la beffa ai figli dei femminicidi. della serie cosa si dice e cosa si fa, gli aiuti economici per loro e le famiglie affidatari non sono mai arrivati, la legge è inapplicabile, bello fare delle leggi che sono inapplicabili. Per il 2019 è previsti 5 milioni, ma i fondi non ci sono. Allora dicono queste famiglie, ci sentiamo traditi due volte dallo Stato. Questo è quello che arriva dal Corriere. Giro poi la pagina dell'ambiente del Corriere, energia delle onde, la forza nel mare, è la pagina così, il bello dell'Italia, che vogliamo appunto dare anche noi. Il pianeta blu è una delle maggiori fonti di risorse rinnovabili, mai poco utilizzato, ai ai ai, ci siamo da capo. Eni ha creato una nuova tecnologia ibrida e pulita che mette a frutto il moto delle acque. Beh, speriamo che sia una cosa vera. Allora, lavoro, a pagina 13, braccianti sì che si ribellano, a Latina lo sciopero indiano. Abbiamo questa situazione di una prima protesta auto-organizzata, ma oltre alla CGIL, ieri hanno aderito anche CISL e UIL. Massimo Franchi da Latina, tre indizi fanno una prova, due settimane fa un bracciante scaricato dal datore di lavoro senza alcunché si è sdraiato disperato sui binari di Priverno. A fondi la Guardia di Finanza ha trovato ben 15 aziende agricole totalmente in nero, a proposito di evasione. Total que poi è sfruttamento e tutto quello che ne consegue, con centinaia di lavoratori senza alcuna tutela. 10 giorni fa a Terracina un imprenditore ha sparato ai braccianti non contento della loro produttività. Progresso, questo qui sembra più l'Alabama. Storie di sfruttamento nel Pontino. Se chiedi diritti scatta la sostituzione etnica. Abbiamo protestato e allora il padrone ci ha aumentato la paga da 4 a 5 euro, ma in busta ci saranno sempre 3 ore al giorno invece che 10, racconta Sim Caglet, che ha 55 anni e lavora a Sabaudia da 10 anni. Da quanto ci siamo iscritti alla CGIL ci guardano male. Raccogliamo zucchine in condizioni più dure, ma almeno il contratto è rispettato, spiega Carampert, che di anni ne ha 25 è arrivato solo da un anno. Generazioni di indiani a confronto nella lotta per i diritti. E allora dai lavoratori che migranti che lavorano a quelli che arrivano, migranti in arrivo dalla Libia, oltre 170 in attesa di sbarcare. Curioso che da quando c'è il governo giallo rosso il giornale è sensibilissimo ai migranti. Prima erano tutti terroristi, adesso invece dopo il naufragio del 7 ottobre la Guardia Costiera è al lavoro. Chiudiamo con questa notizia, perché mentre tutti dicono da una parte che bisogna trovare una soluzione nelle città per decongestionare il traffico con mezzi pubblici, quando si avanza qualcosa del genere c'è la levata di scudi di chi dei soliti commercianti. Ce lo segnala il Carlino, che sposa questa protesta. No al tram, proteste e accuse in comune. Seduta sospesa per un'ora, il comitato, se l'avesse fatto i centri sociali sarebbe un casino, Salvini avrebbe in città, la Meloni pure, e non dico la candidata della Lega per la nostra regione, invece c'è una certa solidarietà. Seduta sospesa per un'ora, il comitato chiede un nuovo incontro pubblico con l'assessore Prioli, i cittadini che... quei cittadini, ancora una volta va messo quei cittadini, perché ognuno di noi si piglia i propri oneri, i propri onori. Quei cittadini sono mesi che ci evitano. Il fronte anti-Trump insiste sul referendum, fredda l'amministrazione. Marco Lisei di Fratelli d'Italia, che cavalca tutto anche il no al Trump, i fondi dell'opera non sono nella bozza di bilancio, c'è tempo per ripensarci. Insomma, per convincere quei cittadini cerchiamo di mettergli, di indorargli la pillola. Mamma che non vuole che facciamo l'amore sotto il letto, in cucina, sul divano. Facciamolo sul tram nel centro di Torino. Mi piace tanto, ma mi sono fatto così. Ma al caos dell'ora di punta ci ameremo nella calca, appoggiati contro i vetri come due sconosciuti. Tornarci sopra il tramite. Verso la conclusione, dopo questa bellissima colonna sonora, si passa alla cronaca delle città per poi arrivare alla nostra. Le ronde dei cittadini romani, foto ai rifiuti per controllare Ama. La Raggi ha trovato una situazione oscena, ma con lei non si è vista la discontinuità. Venerdì sciopero dell'azienda, appello agli abitanti, non gettate spazzatura. Professionisti, magistrati e anche un'attrice verificano la regolarità dei passaggi programmati per ritirare l'immondizia. C'è chi questa sensibilità non l'ha affatto, e chiudo, azione collegata alla protesta dei conservatori contro il sinodo per l'Amazzonia. Sapete cosa fanno gli ultracattolici? Rubano le statue e poi dopo le gettano nel Tevere, per cui direi proprio che non è esattamente uno sviluppo e un passaggio di smaltimento ideale. Allora, il Giappone ha il suo imperatore Naruhito, abbiamo già detto. Beh, noi abbiamo di più. E questo chiudiamo. Abbiamo il re del caffè, che è molto meglio di essere il re del sollevante. Allora, chi è il re del caffè? Stefano Cevenini, il miglior espresso del mondo. E quindi, chapeau. Infatti, noi siamo fierissimi di questo. Con questo, complimenti a Cevenini. Ciao a tutti, risentirci.